Bibbia Martini, primo libro dei Re 18 Crescendo la fame, Elia va incontro ad Abia, che cercava erba per bestiami, e difficilmente lo induce a dar nuova ad Ashab di sua venuta. Questi va a trovare Elia, ed è ripreso da lui. Elia mosso da gelo di Dio comanda, che siano uccisi gli 850 falsi profeti, fa venire fuoco dal cielo a consumare l'olocausto, e impetra da Dio la pioggia. Molto tempo dopo il Signore parlò ad Elia l'anno terzo, e dissegli, va, e fatti vedere ad Ashab, affinché io faccia cadere la pioggia sopra la terra. Andò dunque Elia a farsi vedere ad Ashab. Or la fame era gagliarda in Samaria. E Ashab chiamò a sé Abdia maggiordomo di sua casa. Ora Abdia era molto timorato del Signore. Impero che quando Gezzabele facea morire i profeti del Signore, prese egli 100 profeti, e li nascose 50 in una, e 50 in un'altra caverna, e li sostentò con del pane, e dell'acqua. Disse adunque Ashab ad Abdia, fa un giro per il paese verso tutte le fontane, e per tutte le valli, se mai potessimo trovar dell'erba, e salvare i cavalli, e i muli. Onde non periscano affatto le bestie. E si spartirono le regioni, per farne il giro. Ashab andava da una parte, e Abdia separatamente dall'altra. E mentre era Abdia in viaggio, Elia andògli incontro, e quegli avendolo conosciuto, si prostrò boccone, gli disse, se tu, signor mio, Elia? E quegli rispose, san io. Va, e di al tuo signore, e qua Elia. Ma quegli, che male ho fatt'io, disse, che tu dia me tuo servo nelle mani di Ashab, perché mi uccida? Viva il Signore Dio tuo, non abbi nazione, né regno, dove il Signor mio non abbia mandato a cercarti, ed essendogli da tutti risposto, ei non è qui, egli non trovandoti ha scongiurati i regni ad uno, e le nazioni, e ora tu vieni a dirmi, va. E di al tuo Signore, e qui Elia. Or quand'io sarò partito da te, lo Spirito del Signore ti trasporterà in luogo ignoto a me, e fatta da me l'imbasciata, Ashab non ritrovandoti mi ucciderà, or il tuo servo teme il Signore fin dall'infanzia. Non è egli stato ridetto a te, Signor mio, quel, ch'io feci allor che Jezabele uccideva i profeti del Signore. Com'io ascosi 100 profeti del Signore, 50 in una caverna, e 50 in un'altra, e li sostentai con del pane, e dell'acqua? E ora tu dici, va a dire al tuo Signore, Elia è qui, affinché egli mi uccida. Ma Elia disse, viva il Signore degli eserciti, di cui io san servo, oggi io mi farò vedere a lui. Andò pertanto Abdia a trovare Ashab. E fecegli l'imbasciata, e Ashab andò incontro ad Elia. E avendolo veduto, disse, non sei tu colui, che mette sossopra Israele? E quegli rispose, non io ho messo sossopra Israele, ma tu, e la casa del padre tuo, perché avete negletti i comandamenti del Signore, e siete andati dietro a Baal. Con tutto ciò manda adesso a far raunare tutto Israele dinanzi a me sul monte del Carmelo, e i 450 profeti di Baal, e i 400 profeti dei boschetti, i quali sono pasciuti da Jezabele. Mandò Ashab a chiamare tutti i figliuoli di Israele, e raunò i profeti sul monte del Carmelo. Ed Elia appressatosi a tutto il popolo, disse, fino a quando zoppicate voi da due lati? Se il Signore è Dio, tenete da Lui, se poi lo è Baal, seguite Lui. Ma il popolo non gli rispose parola. E di nuovo disse Elia al popolo, san rimaso io solo dei profeti del Signore, e i profeti di Baal sono 450 uomini. Siano dati a noi due bovi, e quelli scelgano un bue per loro, e fattolo in pezzi lo mettano sopra la legna, ma senza appiccarvi il fuoco, e io sacrificherò altro bue, e porrollo sopra le legna, ma non vi appiccherò il fuoco. Invocate voi i nomi dei vostri dei, e io invocherò il nome del Signor mio. E quel Dio, che esaudirà mandando il fuoco, egli sia Dio. E tutto il popolo rispose, e disse, ottima proposizione. Disse adunque Elia ai profeti di Baal, sceglietevi il bue, e fate voi i primi, perché voi siete in maggior numero, e invocate i nomi dei vostri dei, senza appiccare il fuoco. E quelli, preso il bue, che gli aveva dato loro, lo immolarono, e invocavano il nome di Baal dalla mattina sino al mezzodì, dicendo, Baal ascoltaci. E non si sentiva alito, né chi rispondesse, e saltavan di là dall'altare, che avean fatto. Ed essendo già mezzodì, Elia si burlava di loro, dicendo, gridate con voce più sonora, perocché egli è un Dio, e forse è in qualche ragionamento, od è all'osteria, o per viaggio, o almeno dorme, fatelo svegliare. Egli no adunque gridavano ad alta voce, essi facevano delle incisioni secondo il rito loro con coltelli, e lancette sino a bagnarsi tutti di sangue. Ma passato che fu il mezzodì, mentre quelli profetavano, è venuto il tempo, in cui suole offerirsi il sacrificio, senza che si sentisse nessuna voce, né anima che rispondesse, o desse retta a quei, che predavano, disse Elia a tutto il popolo, accostatevi a me. E appressato che fu a lui il popolo, egli ristaurò l'altare del Signore, che era stato rovesciato. E prese 12 pietre secondo il numero delle tribù dei figliuoli di Giacobbe, a cui il Signore parlò, e disse, il nome tuo sarà Israele. E con quelle pietre edificò l'altare nel nome del Signore, e vi fece una fossa come due piccoli solchi attorno all'altare, e aggiustòvi le legna, e spezzò il bue membro per membro, e lo posse sopra le legna, e disse, empiete 4 idrie d'acqua, e gettatela sopra l'olocausto, e sopra le legna, e di nuovo disse, fatelo anche un'altra volta. E avendo quelli ciò fatto per due volte, disse, fate lo stesso ancora per la terza volta, e lo fecero per la terza volta, e correva l'acqua attorno all'altare, e la fossa restò piena. Ed essendo già tempo di offerir l'olocausto, si appressò il profeta Elia, e disse, Signore Dio d'Abramo, e di Isacco, e di Israele, fa oggi conoscere, come tu sei il Dio d'Israele, e io san tuo servo, e tutte queste cose ho fatte per ordine tuo. Esaudiscimi, o Signore, esaudiscimi, affinché questo popolo impari, che tu sei il Signore Dio, e tu hai convertiti di bel nuovo i loro cuori. E scese il fuoco del Signore, e divorò l'olocausto, e le legna, e le pietre, e la polvere ancora, e beve l'acqua, che era nella fossa. La qual cosa avendo veduta tutto il popolo, si prostrò boccone, e disse, il Signore egli è Dio, il Signore egli è Dio. Ed Elia disse loro, mettete le mani addosso ai profeti di Baal, e nemmeno di essi abbia scampo. E presi che furono, Elia li condusse al torrente di Cison, e ivi li fece morire. Ed Elia disse ad Ashab, va, mangia, e bevi, perocché fischia il rumor di gran pioggia. Ashab pertanto andò a mangiare, e bere, ed Elia salì sulla cima del Carmelo, e inginocchiato si pose la sua faccia tra le sue ginocchia. E disse al suo servo, va, e guarda dalla parte del mare. E quegli essendo andato, e avendo osservato, disse, non vi è nulla. E quegli di nuovo gli disse, tornavi fino a 7 volte. E la settima volta comparve una piccola nuvoletta come un piede di uomo, che saliva dal mare. E diss'egli, va, e di ad Ashab, attacca i cavalli al tuo cocchio, e vattene, affinché non sii sorpreso dalla pioggia. E mentre quegli si volgeva da un lato all'altro, ecco, che subitamente si oscurarono i cieli, e cadde una gran pioggia, e Ashab salito se ne andò a Jezreel. E la mano del Signore fu sopra Elia, il quale cintosi i fianchi correva innanzi ad Ashab, fino che arrivò a Jezreel. Note, 18,12 anno terzo. Comunemente si computa questo terzo anno dal tempo che Elia si partì dalle vicinanze del torrente Carit per andare a Sarefta. 18,22 in Samaria. Con questo nome è sovente intesa nelle scritture la capitolo e tutto il paese delle dieci tribù. 18,32 chiamò a sé Abdia, ec. Gli ebrei, e con essi Teodoreto credettero che questa Abdia fosse lo stesso profeta, di cui abbiamo gli scritti tra profeti minori, e lo fanno marito della vedova di Sunam, di cui si paria, 4. Ragionier 4, ma questa opinione manca di fondamenti. 18,42 prese 100 profeti, ec. Questi profeti erano uomini pii, che si adunavano insieme per meditare la legge, e cantare le laudi del Signore, come erano quelli che vivendo sotto la direzione di Samuele, 1. Reg. 19. Così vedesi, che Dio aveva tuttora molti servi fedeli in un paese, dove l'impietà trionfava. Anzi non mancano interpreti, i quali credono che questi fossero veri profeti. 18,17 Non sei tu colui che mette sossopra Israele? La stessa accusa fu data a Cristo da gli ebrei, Luke 23. 2. Lo gelo per Elia per la gloria del Signore lo rendeva degno di partecipare agli obbrobri e alla persecuzione che doveva soffrire un giorno il Messia. 18,192 I 450 profeti di Baal e i 400 dei boschetti. I profeti di Baal sparsi per tutto il regno in numero di 450, e i profeti che fanno le loro funzioni nei boschetti consacrati alla dea Astarte, i quali profeti erano mantenuti da Jezabele. Questi ultimi non si trovarono sul Carmelo. 3. Reg. 22. 6. 18,24 E quel Dio che esaudirà ec. Elia era sicurissimo dell'evento, perché quello che gli proponeva gli fu suggerito dallo Spirito del Signore. Così egli non tentava Dio, il quale suole con simili prodigi venire in soccorso della combattuta religione. Abbiamo veduto più volte mandato il fuoco dal cielo a consumare le vittime offerte al Signore. 18,26 Soltavano di là dall'altare. Può essere questa una delle cerimonie usate da che fanatici profeti nei loro sacrifici? 18,28 Si facevano delle incisioni e così offrivano a Baal il proprio sangue, il rito di scarnificarsi, per così dire, e di straziare le proprie carni era comune a sacerdoti di Bellona, di Cibele, della dea Siria. 18,29 Mentre quelli profettavano, mentre invocavano Baal, e facevano che loro salti e le incisioni sulla loro pelle, che erano riti degni di tali profeti. Venuto il tempo in cui suole offerirsi il sacrificio, vale a dire il tempo del sacrificio della sera. Vedi Exod 29. 41. 18,30-31 Ristaurò l'altare del Signore, che era stato rovesciato, ec. Questo altare doveva essere stato eretto in onore del vero Dio sul Carmelo, nei tempi che precedettero la fondazione del Tempio, ed era di poi stato rovinato dagli idolatri. Elia prende 12 pietre, delle quali era già composto l'altare, perché si trattava di riunire le dieci tribù col popolo di Giuda in una stessa religione, onde il suo sacrificio afferisce a nome di tutti i discendenti di Giacobbe, a quali rammenta il nome e indignità di israeliti ereditata da quel loro patriarca, del qual nome e della qual dignità si erano rendute indegne le dieci tribù col servire ai falsi dei. 18,35 E correva l'acqua. Ella l'aveva fatta gettare sull'altare in tanta quantità, che bagnandolo tutto da capo e da piedi, non potesse restare ombra di dubbio che il fuoco, che doveva venir sull'altare, non fosse celeste e miracoloso. 18,42 Due punti pose la sua faccia tra le sue ginocchia. Si esprime la umiltà e la profonda attenzione, con la quale orava il profeta. 18,46 Due punti arrivò a Jezreel. Ivi era una villa di Ashab.